posso dirti. Frankie lì sul beat mastica fake come le ossa i primitivi. I primi attivi dall'estremo opponente. Braccia più la mente, la fatica non si sente per niente. Seduto, calmo e rilassato, fumo beato da quando sono nato. Mi hanno incastrato ma sto comodo lo stesso. Settimo stamprezzo, se non mi trovi sono al cesso. Omologato per storie senza fine. Matrice onegliese, lo leggi fra le righe. Onoro il mio porto con la sua acqua salata. Paga la rata e vattene a casa che Frankie ti basa. A fuoco lento, mischio le tue ceneri e coca e il resto butto al vento. C'è il mio stampo sul cemento, attento, se sono con il ghigno spento. Made in Imperia, 1-800. E qui da troppo tempo parte dell'arredamento. Giro ma sul tempo, sul mic come clava. Sulle mani in aria per la manigozza armata. Fuori dai Carugi smanonissima la posa. Sono lì per sbattere, piace qualcosa. La tipa strafiga, che passa e non mi caga. Lo stronzo che compra e dopo un anno mi paga. Dalla terra degli ulivi, della noia che ti uccide. Simo osserva tutto e scrive le sue rime. Faccio parte del contesto, che vi piaccia o non vi piaccia. Chi non sa taccia vi sputano sulla traccia. Basta, personaggi nati da una sega. Giù lo mangia fuoco, foto e tema sto ciliegia. Zona ex feriere, schiumiamo le tre ciminiere. Chi mi parla contro ha la testa nel braciere. Rancore e cattiveria, ascolta Made in Imperia. Ci sono i manigoldi, noi re della miseria. Esperti in materia, due passi dal sagrato eppure sul mio tracciato solo mozziconi e viure. Rancore e cattiveria, ascolta Made in Imperia. Ci sono i manigoldi, noi re della miseria, esperti in materia, due passi dal sagrato eppure sul mio tracciato solo mozziconi e piure. Solo mozziconi e piure. Solo mozziconi e piure. Mozziconi e piure. Ascolta Made in Imperia. Rancore e cattiveria, ascolta Made in Imperia. Hit. Aspetta, che dovrei dire pensare, no? Cosa devo dire? Hit. Carugi Uniti Beats. La nostra family, tante note, tante spracchettate, tante mazzate sulle teste. ICA, Gaff Crew, direttamente da Ineia, Imperia, Liguria. Honor Beats, writing. Hit. Hit.